giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Restano ricoverati all'ospedale di Cattinara 2 degli 8 detenuti rimasti feriti ieri sera durante la rivolta scoppiata nel carcere di Via Coroneo. Un evento scaturito dal sovraffollamento che costringe 250 detenuti a vivere in uno spazio per 150 dove le condizioni igieniche sono contraddistinte anche dalla presenza di cimici. Molte le reazioni sulla situazione carceraria a Trieste, tra le prime quella di Monsignor Trevisi, secondo il quale bisogna invertire la tendenza di aumentare i reati a cui corrispondono pene detentive. Per Seracchiani del PD la riforma Nordio è una farsa, Massolino del Patto per l'Autonomia chiede di poter visitare nuovamente il carcere, mentre Sinistra Italiana annuncia un'interrogazione parlamentare. In 5 anni il sistema sanitario regionale ha erogato 100.000 prestazioni specialistiche in meno, per alcune aree significa addirittura il 14% in meno del totale. I dati sono stati forniti da uno studio della CGIL. Il caldo afoso ha le ore contate, i meteorologi prevedono anche temporali forti per questa sera, ma nei prossimi giorni torneranno le temperature estive e il solleone. Protesta contro gli impianti di cogenerazione della TAL davanti al Consiglio regionale in attesa che il TAR si pronunci in merito alle autorizzazioni date dalla Regione. A Trieste sono state allestite 2 aree gioco in 2 spazi verdi per complessivi 80.000 euro. Buongiorno da Daniele Letti, Gennada Cioc. Restano ricoverati nell'ospedale di Cattinara, nella medicina d'urgenza, 2 degli 8 detenuti rimasti feriti ieri sera durante la rivolta scoppiata nel carcere triestino. Un evento scaturito dal sovraffollamento che costringe 250 detenuti a vivere in uno spazio per 150 dove le condizioni igieniche sono contraddistinte anche dalla presenza di cimici. Un fatto noto da almeno 2 anni, sostengono alcuni legali dei detenuti. Sul sovraffollamento cronico delle carceri e la mancanza di organico è intervenuto con una nota anche il vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi. Bisogna agire e invertire la tendenza di aumentare i reati a cui corrispondono pene detentive per inventare altre modalità di pene che meglio corrispondono a quanto previsto anche dalla nostra Costituzione, dai trattati internazionali e dalle nostre leggi, ha scritto il prelato in una nota. Ma sentiamo il servizio. Il sovraffollamento, il caldo, le cimici. Sono queste le ragioni profonde alla base della rivolta nel carcere di Trieste, scoppiata ieri sera intorno alle 8 e sedata dopo diverse ore. Una rivolta che ha coinvolto 2 piani del penitenziario, circa 130 detenuti e di cui ancora non è chiara la causa scatenante, forse un litigio, uno screzio dovuto alla gestione dei colloqui in carcere che ha dato sfogo a una rabbia che cova da tempo. Via Coroneo è stata bloccata dalle forze dell'ordine con agenti in tenuta antisommossa. Durante i disordini, i detenuti hanno preso d'assalto l'infermeria, dove sono custoditi i farmaci. 7 persone, tutti carcerati, sono stati portati al pronto soccorso, alcuni per malori e problemi cardiaci. La SUGI ha attivato il piano per le massime emergenze, con 10 ambulanze e 2 automediche. La rivolta è rientrata intorno alle 23, grazie alle mediazioni che sono proseguite fino a tarda notte. Alla fine i detenuti sono rientrati in cella, hanno ripulito tutto. Le interlocuzioni intanto continuano con il magistrato di sorveglianza di Trieste, Emanuela Putrino, intervenuta anche ieri e che anche oggi in carcere ad ascoltare le richieste dei detenuti. Intanto a Trieste il sovraffollamento è un problema grave. Il carcere ospita circa 260 detenuti per una capienza massima che arriva a 139. Come spiega Giovanni Altomare, il segretario regionale del SAP, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, i detenuti sono ammassati. Ci sono celle da 9 persone con un unico bagno e c'è chi sta nelle sezioni con i materassi a terra. Tutti i reclami che si aggiungono all'assenza di figure professionali che possono assistere ai carcerati. Per la garante dei diritti dei detenuti di Trieste, l'avvocata Elisabetta Burlo, l'impegno della politica è inesistente. Ci si aspettava soluzioni coraggiose, magari non amnistia o indulto, ma almeno la liberazione anticipata speciale. Tutte aspettative che sono state tradite. Ora la politica dovrà farsi un esame di coscienza. Per il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste, Alessandro Cuccagna, nessuno di chi conosce la situazione delle carceri può pensare che la situazione sia governabile. Fino ad oggi sono 60 i morti in carcere quest'anno in Italia. Carcere è una soluzione per i delinquenti, ma non può diventare una fonte di ingiustizia. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Numerose le reazioni politiche che stanno arrivando. Il PD provinciale in una nota sottolinea che proprio ieri la sezione provinciale aveva organizzato un incontro sull'emergenza carceri in cui sono state ribadite le criticità croniche del sistema detentivo italiano. Deborah Serracchiani, responsabile giustizia del PD nazionale, ha così sintetizzato: il carcere è ormai un'emergenza nazionale che riguarda sia le condizioni di vita dei detenuti che le condizioni di chi vi lavora. La necessità di una visione strategica a medio-lungo periodo è urgente, ma questo decreto, aggiunge Serracchiani, non fornisce risposte. Si tratta di un decreto farsa che non risolve nulla. La recidiva non si abbatte se stare in carcere è una perdita di tempo. La consigliera regionale del Patto per l'Autonomia, Giulia Massolino, ha richiesto una nuova ispezione della struttura carceraria del Coroneo dopo quella effettuata in aprile, mentre adesso Trieste ha richiesto un'audizione in Consiglio Comunale. Un disastro ampiamente annunciato e che le istituzioni dovevano riuscire a prevenire, dichiara Massolino. Le esasperate operatrici e operatori incontrati nel mio precedente sopralluogo avevano descritto la situazione come una polveriera pronta a esplodere. Le condizioni di grave sovraffollamento, aggiunte al caldo torrido, hanno innescato la scintilla. Sinistra Italiana, attraverso il segretario regionale Sebastiano Badini e la segretaria provinciale Elisa Moro, annuncia un'interrogazione parlamentare. I diritti umani più basilari sono costantemente compressi all'interno del Coroneo, scrivono in una nota Badini e Moro, aggiungendo che la risposta dello Stato è stata quella dei manganelli e degli agenti antisommossa. È evidente, proseguono, che uno Stato moderno non possa agire così per un fenomeno strutturale come quello del sovraffollamento. Passiamo adesso al tempo. Attualmente il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 30 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 29 gradi. A Udine 31 gradi, a Gorizia 33, a Pordenone 32. A Tolmezzo 26 gradi, a Tarvisio 25, a Forni di Sopra 23, a Piancavallo 22 gradi, a Sappada 23 gradi. Sul Monte Zoncolan 19, sul Monte Lussari 18 gradi. Sulla costa a gradi 30 e a Lignano 33 gradi con temperatura del mare di 29 gradi. Il caldo torrido potrebbe presto allentare la presa, ma sentiamo che cosa ci attende nelle prossime ore dal previsore dell'ARPA Livio Stefanuto. L'anticiclone che ha portato il caldo afoso di questi ultimi giorni si ritrae temporaneamente oggi e domani verso sud e quindi lascia spazio all'entrata di correnti atlantiche instabili sul nord Italia. Già alcuni temporali hanno interessato la fascia alpina delle regioni centro-occidentali, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, ma anche in regione ci aspettiamo la possibilità di temporali da oggi pomeriggio fino al pomeriggio sera di sabato. Temporali che saranno più probabili sulla fascia montana, ma saranno possibili anche su pianura e costa. Non è escluso con questa energia che qualche temporale possa essere anche di forte intensità. Naturalmente domani la temperatura potrebbe calare di qualche grado, dare un attimo di tregua, soprattutto direi in pianura, mentre sulla costa continuerà a sentirsi un po' di caldo afoso. E poi da lunedì direi tempo più stabile, già la domenica tempo più stabile, bel tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature di nuovo un aumento, inizialmente un po' meno afoso, ma a partire poi da lunedì di nuovo caldo afoso su tutta la regione. In 5 anni il sistema sanitario regionale ha erogato 100.000 prestazioni specialistiche in meno. Per alcune aree significa addirittura il 14% del totale. I dati sono stati forniti da uno studio della CGIL. 100.000 prestazioni in meno in 5 anni è l'entità della riduzione tra medicina specialistica e attività di laboratorio per il servizio sanitario pubblico regionale, passato dalle 704.000 prestazioni del 2018, data di avvio della prima giunta Fedriga, alle 604.000 del 2023. A fornire i numeri la CGIL Friuli Venezia Giulia nell'ambito di un'indagine presentata a Udine dal segretario generale Michele Piga e dai responsabili della funzione pubblica e dei pensionati, Orietta Olivo e Renato Bressan. Escludendo Crodi Aviano e Burlo di Trieste, per le 3 aziende territoriali il calo medio è del 14%, con punte superiori al 18% per ASUFC e ASFO, mentre ASUGI contiene la riduzione al 4,4%. I dati tengono conto sia dei servizi erogati dal pubblico che di quelli del privato convenzionato. Evidenziano sì la forte flessione causata dalla pandemia, ma anche un recupero molto lento dopo la fine dell'emergenza. A preoccupare il sindacato non è soltanto la riduzione delle prestazioni erogate, anche la tempistica, rileva la CGIL, sta peggiorando di anno in anno. con notevoli differenze tra le diverse aziende, nel 2018 le prestazioni venivano erogate nei tempi per l'80% dei casi, il dato scende al 61% nel 2023. Nel primo trimestre 23 la nostra è stata la regione con la più alta riduzione delle prestazioni offerte rispetto al 2022, meno 11%. Il dato economico complessivo della mobilità passiva dal Friuli Venezia Giulia ammonta per il 2022 a 68 milioni, senza contare quanto sborsato di tasca propria dai cittadini per le prestazioni erogate dal privato. Uno su cinque si rivolge altrove. Le spese regionali per l'acquisto di prestazioni dal privato accreditato sono cresciute del 20% tra il 2019 e il 2022, da 106 a 128 milioni. La crescita dei tempi di attesa alimenta la fuga verso strutture pubbliche e private di altre regioni, in particolare del Veneto, sottolinea la CGIL. Duro il giudizio politico accompagnato da una richiesta di svolta. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Tornano a chiedere i segretari generali della UIL del Friuli Venezia Giulia, Matteo Zorn e Stefano Bressan, l'apertura di un confronto con la Regione sul tema delle risorse aggiuntive regionali per i lavoratori del comparto sanitario, lo stanziamento di nuove risorse e una deroga ai limiti di spesa per il personale per permettere alle aziende sanitarie di fare assunzioni a termine per smaltire le liste di attesa. La garanzia data dalla Regione, che aggiungerà in assestamento di bilancio le risorse necessarie per incentivare il personale, secondo la UIL regionale, non è una soluzione. A Gorizia ha restituito alla cittadinanza lo storico istituto O'Donnell e Nassi, sede dei servizi educativi e scolastici e da quasi 100 anni luogo di aggregazione, istruzione e formazione di bambini e ragazzi. Quasi un secolo di vite di bambini e bambine sono passate tra le mura, oggi completamente rinnovate, dell'Istituto Lenassi in via Vittorio Veneto a Gorizia. Questa mattina, alla presenza del sindaco Rodolfo Ziverna e delle altre autorità cittadine, il taglio del nastro che conclude 10 mesi di lavori di riqualificazione. Circa 3 milioni di euro il finanziamento complessivo, coperti in parte da fondi regionali, in parte dal PNRR. L'intervento ha riguardato il rifacimento degli intonaci e della copertura con bonifica dell'amianto, il consolidamento dell'apparato murario e la sostituzione dei serramenti. È una giornata di festa per la città di Gorizia e per i suoi bambini, ha detto il sindaco Ziverna all'inaugurazione, ricordando come la struttura a pieno regime accolga 200 bambini al giorno e riunisca tra l'altro attività come la biblioteca per bambini e ragazzi, la ludoteca per i piccoli da 0 a 6 anni e quella per i più grandicelli fino ai 12 anni, il centro bambini e genitori, il centro estivo, ma anche uffici amministrativi e la ristorazione scolastica per un totale di circa 30 operatori. Il Lenassi nasce da un lascito testamentario al comune di Gorizia del 1927 e dal 1931 diventa istituto maschile per l'infanzia abbandonata. Poi, dopo la guerra, venne trasformato in istituto educativo, aprendosi anche alla componente femminile. Gorizia, Lorenzo Gherlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Area gioco completamente rimessa a nuovo nel giardino presso il centro civico di Opicina e nell'area gioco di via Muratori a Trieste, con degli interventi finanziati dal comune. A Opicina sono state installate per un valore di 55.000 euro 4 nuove attrezzature destinate alla fascia d'età 1-12 anni. Un gioco a 2 torri, 2 molle e 1 locomotiva. L'intera area è stata inoltre dotata di una nuova pavimentazione in gomma antitrauma, garantendo uno spazio in sicurezza per il gioco libero, non strutturato, ma anche per future eventuali nuove installazioni. In via Muratori, con un costo di quasi 32.500 euro, sono state installate 3 nuove attrezzature, un gioco a 2 torri, 1 molla e 1 altalena a 2 posti. In quest'ultima, la prossima settimana, verrà eseguito lo sfalcio periodico del verde che non si è potuto eseguire durante l'accantieramento. I lavori sono stati eseguiti dal raggruppamento di imprese formato dalle ditte triestine Mari e Mazzaroli e Al Green. Il nucleo dell'Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri ha verificato le posizioni contrattuali di 30 lavoratori della ristorazione triestina, individuando in un ristorante etnico 3 lavoratori in nero, di cui 1 minorenne, con conseguente adozione del provvedimento di sospensione dell'attività. Presso una pizzeria c'erano 2 dipendenti che non erano stati formati sulla sicurezza ed è stata accertata anche la presenza irregolare di un impianto di video sorveglianza privo di autorizzazione, utilizzato anche per il controllo a distanza dei lavoratori. In un terzo locale è stata accertata l'assenza del documento di valutazione dei rischi, motivo per cui è stata disposta la sospensione dell'attività. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 60.000 euro. La polizia di frontiera di Trieste ha arrestato in flagranza nei giorni scorsi 3 persone per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Si tratta di un ucraino di 62 anni fermato al valico di Fernetti, di un 41enne albanese fermato a Rabuiese e di un 25enne siriano fermato a Pese. Tutti stavano viaggiando con persone prive di documenti validi per l'ingresso nell'Unione Europea. Arrestate anche 6 persone destinatarie di condanne emesse dalle autorità giudiziarie di varie città italiane: 2 cittadini italiani di 32 e 59 anni, 2 cittadine romane di 47 e 34 anni, un 25enne albanese e un 35enne moldavo. Select FVG è la nuova agenzia regionale che si occuperà dell'attrattività economica del Friuli Venezia Giulia. È stata presentata poco fa dal presidente Fedriga e dall'assessore Bini. Sono gli Stati Uniti, almeno per il primo anno di attività, l'obiettivo principale della Select FVG, nuova denominazione dell'Agenzia Lavoro Sviluppo e Impresa, ente direttamente controllato dalla regione. Ma l'iniziativa dedicata al mercato estero ha come focus l'attrazione di investimenti da oltrefrontiera, secondo 3 linee guida, cioè la collaborazione con agenzie di appoggio all'estero, una maggiore riconoscibilità anche grazie al nuovo logo e una maggiore chiarezza nella comunicazione. Per i prossimi mesi sono già in calendario missioni negli USA, ma sono nel contempo in asse di partenza i lavori per la partecipazione a Expo 2025 in agenda in Giappone, in cui il Friuli Venezia Giulia sarà ospite speciale per una settimana. Non mancano poi gli sforzi diretti al mercato balcanico, tradizionale per la regione. I vari progetti in cantiere saranno infine modulati secondo i trend di mercato, dalle esigenze della sostenibilità ambientale all'andamento della manifattura, in aggiunta logistica e poi ricerca e sviluppo. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Protesta contro gli impianti di cogenerazione della TAL davanti al Consiglio regionale in attesa che il TAR si pronunci in merito. Sentiamo. Bisognerà attendere per conoscere la decisione del TAR sul ricorso presentato contro le autorizzazioni concesse dalla Regione Friuli Venezia Giulia al progetto di installazione di 4 impianti di cogenerazione lungo l'oleodotto Siot TAL nei comuni di San Dorligo della Valle Dolina, Reana del Royale, Cavazzo Carnico e Paluzza. Nella prima udienza, infatti, il ricorso è stato preso in esame dal giudice, che ora dovrà decidere se sia stato legittimo autorizzare la costruzione degli impianti senza prima realizzare una valutazione di impatto ambientale. La mancanza della VIA è infatti uno degli argomenti su cui si basano i ricorsi presentati da Lega Ambiente, Movimento per la Difesa del Cittadino e Comune di Paluzza. Solo 2 dei ricorsi sono attualmente all'esame del Tribunale Amministrativo Regionale, mentre il terzo non è stato aggiornato alla luce del secondo decreto autorizzativo emanato dalla Regione. Intanto alcune delle realtà che sostengono il ricorso hanno organizzato un presidio davanti alla sede del Consiglio regionale. Non c'è stato alcun dibattimento, spiega Giacomo Genovese, Friday for Future. In realtà il giudice ha chiesto solo i documenti e deciderà sulla base di quello che già è stato presentato. Noi speravamo in un dibattito in modo che appunto si potesse entrare nel merito della questione ambientale, che è più grande anche delle questioni meramente amministrative su cui verte il ricorso. Ma non è stato possibile, quindi adesso siamo in attesa della sentenza. A sostenere la mobilitazione i consiglieri regionali Giulia Massolino e Massimo Moretuzzo del Patto per l'Autonomia, Massimo Mentil del PD e Furio Onsel di Open FVG. I territori interessati sono legittimamente preoccupati e arrabbiati, sottolineano, annunciando la richiesta in occasione dell'assestamento di bilancio di uno studio epidemiologico sui territori coinvolti. I cogeneratori vengono spacciati come un modo per risparmiare energia, aggiungono, ma questa tesi è stata smentita dalla relazione tecnica prodotta dall'Agenzia per l'Energia e da quelle delle università di Udine e di Trieste. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Udine celebra oggi i suoi patroni Ermacora e Fortunato. Nella cattedrale questa mattina la messa solenne è celebrata dal neovescovo Monsignor Riccardo Lamba, che ha impartito dal Sagrato del Duomo la benedizione alla città. E nel giorno dei martiri aquileiesi, Ermacora e Fortunato, che sono anche patroni dell'arcidiocesi di Gorizia e della regione Friuli Venezia Giulia, ad Aquileia sarà ospite Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Monsignor Gallagher terrà una lezione magistralis alle 19 in Piazza Capitolo sul tema a cui lei ha magistra pacis, un contrappunto alla diplomazia della Santa Sede. Successivamente, alle 20, presiederà la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica, che verrà concelebrata dall'arcivescovo di Gorizia, Monsignor Redaelli, e da rappresentanze dell'Episcopato del Triveneto e della Slovenia. E siamo agli spettacoli. Il Festival Musicale Carni Armonie si inaugura alle 20.30 al Teatro Candoni di Tolmezzo con la FVG Orchestra assieme alla pianista georgiana Elisso Blokvadze. Per saperne di più sul programma di questa edizione abbiamo intervistato il direttore artistico di Carni Armonie, Claudio Mansutti. Il programma è lungo, si snoda dal 12 luglio e arriva al 15 settembre, sono 40 appuntamenti dislocati su oltre 20 località di tutta la montagna friulana, toccando un po' tutti i generi musicali, dalla grande classica alla cameristica, al jazz, alle contaminazioni di genere, con alcuni anche spettacoli molto particolari, proprio perché chi risiede in montagna o chi è in versione turistica può quasi ogni sera avere uno spettacolo diverso. Due o tre appuntamenti proprio imperdibili che lei dovesse scegliere e indicare ai nostri ascoltatori? È difficile fare con i propri figli delle differenze, ma comunque sicuramente l'inaugurazione, perché abbiamo una solista, la Elisso Blokvadze, che arriva dalla Georgia, che è una musicista molto famosa di altissimo livello, è una pianista che suonerà il concerto di Beethoven. L'altro appuntamento potrei senz'altro dire come novità questa opera ritrovata di Astor Piazzolla, ci saranno anche i ballerini, una voce recitante che avremo sempre a Tolmezzo il 21 luglio, e una cosa molto particolare verso la fine del programma è il progetto che vede questi attori, ballerini che diciamo riproducono delle opere pittoriche muovendosi lentamente con musica dal vivo, quindi una cosa molto particolare che sarà il 31 agosto ad Amaro. Un bilancio di queste prime 32 edizioni e che cosa ci si aspetta per quella che si apre oggi? Soprattutto negli ultimi anni un crescendo veramente, potremmo dire, rossiniano di attenzione del pubblico, c'è veramente una grande attesa e ci attendiamo di continuare così, di sentire sempre l'affetto del pubblico e magari il prossimo anno di fare qualche piccola variazione sul tema che ancora non sveliamo. Da oggi e fino a domenica il paese di Moraro apre le sue porte, i suoi giardini e le sue case per la prima edizione di una kermessa all'insegna di accoglienza e condivisione tra degustazioni di vini solidali e prodotti del territorio, musica dal vivo e poesia, il Morar Festival. A organizzarlo l'associazione culturale Bluebird di Gorizia. Sentiamo la presidente Monica Tortul. Questo è un festival di comunità, della comunità di Moraro. Cosa significa? Che in queste tre giornate la comunità si racconterà, si aprirà, quindi aprirà appunto le porte di alcuni luoghi che solitamente non sono accessibili, e nelle tre giornate attraverso la musica, le poesie, diverse appunto proposte abbiamo in calendario tra jazz e blues, anche con un artista internazionale, ma anche attraverso un laboratorio, racconterà questo profondo legame che ha con la tradizione agricola, con il gelso, con la lingua friulana, e anche una componente fortemente inclusiva, perché è testimonial di un bellissimo progetto solidale che è nato circa una decina di anni fa, in cui sostanzialmente il comune di Moraro ha dato a una cooperativa sociale in gestione un vigneto. Questo festival a Moraro è alla sua prima edizione. Come è nata l'idea di realizzarlo? Dalla voglia di raccontare in maniera leggera, però appunto attraverso degli appuntamenti culturali, delle degustazioni, ma anche dando voce ad alcune persone della comunità, di raccontare questa ricchezza appunto di questo piccolo paesino che non ha nemmeno 700 abitanti. Quali sono i primi appuntamenti della giornata inaugurale, cioè oggi? Partiamo con la presentazione in anteprima di una canzone e video proprio sul paese di Moraro. Il video è realizzato dai ragazzi che hanno partecipato a un laboratorio di songwriting che si è tenuto a giugno insieme a Marco Anzolino. A seguire ci sarà poi invece un vero e proprio intervento tra musica e parole di Marco Anzolino, che presenterà anche uno dei suoi romanzi, La fine dei baci. E parliamo ancora di beneficenza e sport e pallanuoto. 8 le squadre che parteciperanno al torneo benefico Tutti pazzi per la pallanuoto, organizzato dalla Pallanuoto Trieste. Si tratta di una manifestazione dedicata ai non tesserati, quindi già annunciata la presenza di una squadra di rugbisti prestati per le alte temperature alla pallanuoto, i genitori degli atleti che hanno anche formato una squadra, e saranno nella piscina dello stabilimento Ausonia anche gli ex giocatori. Inizio alle 17.30. E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Letti, Gennada Cioc, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Edoardo Veglia. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.